Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Buongiorno Clemente Mastella. Ah, non c'è ancora. Vabbè, vedi, sono colpi di scena. Io ero fecchia. Ah, ma non avete mai pensato a fare un seguito? Sì, ormai le cose sono state sbrigate su Marte, quindi forse è il caso di tornare sulla Terra per mettere a posto quello che non funziona. Il gattone può entrare col suo ruggito. Ma che ruggito? Ma quale ruggito? La domanda regina è: se non erano ubriache e a loro non sembravano ubriache, perché l'hanno caricata in macchina? C'è chi ci paragona all'AIDS, le dichiarazioni di Ciccè. Come gli ha risposto lei? Che controllassero se fa ancora uso di stupefacenti. Cancelleri mi sembra, diciamo, un buon Cristo, che non so dove l'abbiano riperticato, sinceramente. Vede la tappa di legno, non me ne frega te. Formigli, come fai a lavorare in TV con quella faccia? Non ti fai nemmeno la barba? Vuoi essere più uomo? Perché la barba lunga? Ecco un segreto. In realtà la barba me la sono fatta crescere a un certo punto. Succede, anche tu ti sei fatto crescere i baffi, no? Non so, sai, a un certo punto ci prende male a noi maschietti. Di nuovo un'altra grande giornata, una giornata importante, anche drammatica, per la storia di Noemi, che cambia, come vedremo, anche il senso dell'informazione. Una giornata piena di notizie politiche e anche di una notizia stupefacente che riguarda quello che avete in tasca, i vostri telefonini, o meglio le bollette che i vostri telefonini producono, su cui c'è un trucco e ne parliamo fra poco. Ma come sempre, prima di scoprire i nostri ospiti, prima di entrare sui temi cruciali, ogni volta cominciamo con il fritto misto. Questo è sangue, è una sacca di sangue. Qui c'è il condensato degli anticorpi, dei globuli rossi, di tutte le difese che deve avere una società sana, un cittadino sano. È uno che è uno del movimento sano. Venite a Rimini, ci scambiamo un po' di globuli, cosa volete che sia, senza intermediari. Ci sarò io, ci sarà Casaleggio. Era Beppe Grillo che invitava al sacrificio, alla donazione per il movimento. Sapete, non c'è più il finanziamento dei partiti, con la sacca di sangue. È stata tornata, ha presentato ai siciliani un'offerta molto modesta da vecchio Musumeci, che è una persona seria ma che per la terza volta si candida, appoggiato da Salvini, non sappiamo da quali rappresentanti salviniani. Quella della centrosinistra è addirittura risibile, perché prendono un rettore sconosciuto anche ai suoi professori, che non può essere un candidato, deve essere, non dico famoso come sono io, ma per quello che riguarda il geometra Cancellieri si è già presentato, e il fatto che sia un geometra fa pensare che poteva completare gli studi, insomma, ecco che... Perfido Vittorio Sgarbi, lo sentiremo fra poco, sempre che riesca a svegliarsi, sulla vicenda siciliana in cui ha pronto una sfida che vi svegliamo. Io sto benissimo dove sto, sono orgoglioso e onorato di essere il primo italiano presidente del Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini. Ho molto da fare qua, sono iscritto a Forza Italia e sono convinto che ci sarà una maggioranza con Forza Italia, prima forza politica di questa maggioranza, e perché no, magari con Silvio Berlusconi primo ministro, dopo una positiva decisione della Corte di Strasburgo. Mi fa morire Tajani, io sto bene qua, non, questa casa aspetta a me, non si vuole candidare. E va bene, però Salvini è un po' arrabbiato. Come on, come on, come on. precedenti nella storia repubblicana, che un partito per eventuali errori dei singoli di anni addietro, con la cui gestione ovviamente non c'entro assolutamente nulla, venga messo sostanzialmente fuori legge. In maniera molto concreta, il pagamento dei pullman, dei tendoni, del palco, dei microfoni di Pontida, ad oggi io non sono in grado di sostenerlo. Noi non abbiamo nulla in mano, alcune delle banche che abbiamo interpellato ci dicono che è un'indicazione del Tribunale di Genova. Quindi c'è una scheggia di magistratura che fa politica e mette fuori legge un partito. E il finanziamento è il cuore, ovviamente la condanna, ne parleremo, la Lega potrebbe essere veramente messa in ginocchio, ma c'è altro. Avete capito? Era il coreano. Ridurremo gli USA in cenere e il Giappone non merita di esistere. Distensione! Le voglio dire quello che mi stanno, che sta uscendo in questo momento. Hanno trovato la ragazza. Beh, sono contento. È morta. No! Morta, e Lucio ha confessato. Vedo mio. Vedo mio. Biagio è finita, dai! Ora siamo morti dalla famiglia. Mi dispiace. Siamo morti! Questo è veramente da brivido, è una frontiera che l'informazione non aveva mai attraversato. Quell'urlo, quella madre, quella sofferenza ripresa in diretta doveva essere una barriera di fronte a cui ci si fermava, e invece non è accaduto, è andato in onda, è diventato cibo per tutti noi. Buongiorno a Chiara Geloni, giornalista, opinionista, buongiorno, abitué delle mattine di Radio 24. Ma Chiara... non abituate troppo. Buongiorno. E certo, come no. Ma cominciamo da questa cosa, i genitori di L, il ragazzo minorenne che ha straziato la povera Noemi, filmati. Lo avremmo fatto noi? Tu lo avresti fatto da direttrice? Guarda Luca, tu l'hai fatto. È vero che la radio non è la TV, però l'abbiamo... io non l'avevo ascoltato prima, non l'avevo voluto vedere quel video. Non lo so, è sempre difficile mettersi nei panni di qualcun altro, ma io penso che bisogna sapersi fermare. Capisco, sì, ne ho mandato tre secondi perché si capisse, cosa parliamo, però hai ragione, l'ho fatto anche io, sì. Io non credo che sia giusto. Sento, ma qual è il confine? No? Perché uno dice la cronaca, il racconto. Però insomma qui siamo di fronte a veramente qualcosa che è la spettacolarizzazione di un momento che non so se sia giusto che le telecamere raccontino la vita. È il momento in cui veramente quella frase "siamo morti" ha un senso, no? Quindi è come filmare la morte di qualcuno e poi metterla nel telegiornale. Molte volte è successo che i nostri colleghi si sono fermati di fronte a immagini di quel tipo, no? come appunto immagini di guerra, immagini di attentati, e forse era giusto anche in questo momento fare come se in quel momento fosse morto qualcuno. Allora, i vostri messaggi al 349-238-6666. Giampiero mi manda il primo. Caro Telese, mi raccomando, questa mattina tieni la schiena dritta e non stare sempre su Pino, non so perché Pino, ai tuoi padroni. Schiavo, mi raccomando, cerca di essere più corretto e non sempre dalla parte dei tuoi padroni del Partito Democratico. Buongiorno. Ciao a lui. Giampiero, ci dispiace che hai dormito così male, rilassati, divertiti, goditi la vita, non ho padroni, per mia sfortuna o fortuna, ma è così. Invece ti volevo chiedere un parere, visto che tu sei anche appassionata di politica, anche, cioè voglio dire, oltre che della vita, su questa vicenda della Lega condannata a pagare una supertassa. Ora la Lega non è nelle tue simpatie, ma questa sentenza monstre potrebbe veramente mettere al tappeto il movimento di Salvini, e Salvini pone un problema ai Democrazia. Ti senti di dire che ci sia, come dire, un rischio da questo punto di vista, che giustamente il segretario della Lega mette in luce, cioè per colpe di un'altra gestione si mette al tappeto quella attuale? Adesso non so se sia tanto giusto l'argomento delle colpe di un'altra gestione, perché ovviamente tratta di un soggetto che forse oggi, diciamo, i partiti non danno molto esempio di questo, ma c'è una continuità nella vita dei partiti. Non è che quando vince un leader un congresso allora diventa un altro partito, certo. È sempre lo tra stesso. Tra l'altro la Lega è il partito più antico della politica italiana. È vero. È il simbolo più antico che c'è sulle schede elettorali. E pensa che noi ci ricordiamo quando è nato. Siamo antichi pure noi, chiaro. No, però posso dire che, fatta questa premessa sull'argomento, Salvini pone un problema che non mi sembra del tutto sbagliato. Cioè, io sono una persona, come dicevi tu, appassionata di politica. Penso che la politica sia una cosa importante, uno spazio importante della vita collettiva. Siamo alla vigilia delle elezioni politiche da qualche mese, quindi i partiti sono impegnati alla partenza di una campagna elettorale. Adesso apprendiamo che un partito non può forse neanche pensare alla propria campagna elettorale, perché si trova in una condizione di indigenza totale e improvvisa a causa di un provvedimento della magistratura. Qui siamo proprio nel campo in cui, insomma, è vero che ci sono esigenze di giustizia, se ci sono stati dei reati, se ci sono state delle appropriazioni di denaro pubblico è molto grave, ma questo significa intervenire direttamente nel processo democratico. Oggi ho visto, sfogliando i giornali, che c'è la notizia dell'assoluzione del sindaco Orsoni. Non c'entra, ma faccio un altro esempio per far capire quello che sto dicendo. E ha detto non festeggio. Il sindaco di Venezia fu arrestato mentre era sindaco, fu ovviamente costretto anche dal suo partito a lasciare immediatamente, ma era inevitabile, l'incarico. E oggi viene assolto, era un sindaco eletto direttamente dai cittadini, e la magistratura ha interrotto un fatto democratico, no? Ovviamente non è che sto pensando che l'hanno fatto per cattiveria o per volontà sovversiva, però sono provvedimenti gravi, bisognerebbe ponderare bene prima di arrivarci, perché poi non si può tornare indietro. Allora, traffico, pochi istanti, e poi c'è la notizia del giorno, Chiara. Lo sai che dopo il calendario giuliano, come ci suggerisce Gramellini, è stato riscritto il calendario telefonico per farci pagare più bollette? Traffico, e dopo vi spieghiamo che è successo. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Mattino. I già svegli. Io mi alzo tutte le mattine dal 1972 alle 5:45. Io la mattina mi sveglio verso le 7:30, le 8, faccio colazione, prendo la 48 qua e mi porta al portello, perché io nelle mura di casa non voglio morire, voglio morire in mezzo alla gente. Ma guarda, io generalmente la mattina non tendo a non alzarmi, sì, perché io lavoro la notte. Arrivate a Milan. Ahimè ho due cani, se non mi sveglio io sono svegli i cani e svegliano me. Luca, un consiglio buono, un po' più di grinta, alza un pochettino più la voce, un pochettino più grintoso, dai, capriacciughe, andiamo, vai. A Allora, il calendario di 28 giorni. Cioè, hanno iniziato i druidi, poi i contadini, poi la chiesa, tutti hanno riscritto il calendario, giustamente anche le compagnie telefoniche si sono dedicati a questa impresa, ma per poterci emettere la 13ª bolletta. Ora, due cose! Uno, io non me ne ero mai accorto. Non ho, cioè, percepito che loro avevano mandato una mail, un sms, un trucchettino con cui mi dicevano guarda che adesso la tua bolletta viene riformulata così. Due, è incredibile. Chiara, tu te ne eri accorta di questo trucchetto? Io allora, l'ho scoperto dai giornali di oggi. Me ne sono accorta quando sono andata, perché avevo finito la connessione dell'iPad. Ah. E allora sono andata al centro. Che sono, possiamo dire, sono i momenti più drammatici nella vita, sì, di un uomo. Però io un po' me l'aspettavo, perché questa cosa avveniva in un momento, cioè a fine estate, quando io di solito sto per tornare a Roma, insomma, quindi era un po', già me l'aspettavo. E pensando di essere furbissima, sono andata il 16 agosto, appena riaperto, al centro team e ho detto... visto che penso che sia per finire la connessione, volevo rinnovarla perché devo partire. E loro mi hanno detto, guardi, è scaduta proprio oggi. Allora io ho detto no, mi ricordo che l'anno scorso non l'ho fatto proprio subito dopo Ferragosto, infatti sono venuta in anticipo. E loro mi hanno detto no, ma i mesi sono di 28 giorni. Eri l'unica in Italia che l'avevi scoperto. Hai capito? Beh, strepitoso. Vabbè, meno male che un authority c'è, potremmo dire oggi, eh? Sì, ma infatti non è che quando lo scopri ci puoi fare qualcosa, comunque. Allora, proviamo a svegliare il divino Sgarbi e commentiamolo insieme, perché vuole sparare sulla Sicilia. Vittorio, Vittorio, sei sveglio? Vittorio, proviamo, proviamo. Sono sempre sveglio a quest'ora perché non vado ancora a dormire, normalmente tra le 7 e le 8. Cioè, qual è il tuo ciclo biologico normale? Qual è? Vado avanti tutta la notte finché non arriva l'alba, appena arriva l'alba mi nascondo un attimo e mi risveglio alle 11. Ma tu sei pazzo, come fai? Quando paghi il prezzo di tutto questo? Quando pagherò. Per il momento resisto. Senti, parliamo del Rinascimento. Hai scritto un libro perché pensi che l'Italia possa vivere un nuovo Rinascimento con Tremonti? Beh, Tremonti più ancora che per le sue posizioni economiche, che saranno da valutare e da discutere nella situazione economica attuale, è quello cui viene attribuita, pur essendo persona considerata colta come è, la frase con la cultura, con non, la si cultura non si mangia. Io l'ho voluta contestuale al titolo. Io volevo addirittura stamparla, poi è diventata la fascetta perché lui si sentiva troppo, però lui ha accettato di essere lo zimbello di una parte d'Italia che gli attribuisce quella frase che lui nega di aver detto e la rinnega, la nega e la rinnega, ed è diventato quindi un convertito. Come tu sai, della fede non c'è nessuno più forte, un testimone convertito. Più forte del convertito, i Marrani, questo, i Marrani nella Spagna. Io l'ho fatto apposta. È vero che siete molto in competizione col libro di Renzi? Avanti. Beh, Amazon... Che avete sorpassato! L'ho sorpassato, sì, questo... Ma lo hai letto almeno? Ti quello sei abbeverato no, alle pagine immortali? Non l'ho ancora letto, no, perché l'altra volta ho preso il suo penultimo libro, mi sono seduto sul cesso, ho cominciato a leggerlo, e la foto ha spopolato, anche lui ha divertito. Senti, parliamo di questa doppia vita del vostro Rinascimento, in libreria, come un progetto editoriale, ma anche come un progetto politico, folle, in Sicilia, tu e Tremonti, quello è di Sondrio, un commercialista di Sondrio, beh, candidato in Sicilia, sì. Lo vuoi far traumatizzare, no, perché tu frequenti questo... quei posti, sei stato assessore, ma... No, questo però è già... il segnale di un'autonomia almeno di azione, perché lui sulla Sicilia era radicalmente contrario. La Sicilia è già campagna elettorale, non è che comincerà quando certo. Si aprono le camere, e quindi avere un risultato lì, far perdere il centrodestra o fare un risultato buono in ogni caso, cioè vuoi far perdere il centrodestra? Sarà quasi inevitabile. Perché ma perché? Perché siccome spesso è un rapporto con Berlusconi, sì, con siccome Berlusconi. Tremonti ha un rapporto col centrodestra, adesso addirittura l'obiettivo è far perché perdere il centrodestra. Dobbiamo dimostrare di essere totalmente soli. Il rapporto dei 5 Stelle stata la solitudine. Ma è vero che potevate allearvi, ma c'è un problema perché ti hanno detto no alla candidatura del fratello di Cuffaro, Silvio? No, questo non l'ho detto Cuffaro. Io ho detto che per quello che mi riguardava, se Cuffaro mi chiedeva, se Silvio Cuffaro mi chiedeva di essere candidato, l'avrei candidato. Non è che mi faccio mettere le però denti. Il centrodestra dice no, se c'è Silvio Cuffaro non può esserci. Sono Musumeci, no, perché Silvio Cuffaro. Ah, Musumeci sì, e forse, cioè Musumeci è contrario e Forza Italia lo accetterebbe. Per forza, Forza Italia è il partito di Dell'Utri, per cui non vedo perché non posso candidare uno perché è fratello perché di un altro. Perché Musumeci ti metterebbe questo veto? Perché una posizione come questa è la prova di un abuso, di una visione giudiziaria nella politica. Cioè, se tu sei terese e tuo fratello è condannato per mafia, tu non ti puoi candidare? Lui pensa che il nome Cuffaro sia pesante, sia un simbolo, no? Però non puoi impedire a me di candidarlo, no? Nella tua lista. Ma pensi di parlarci, di convincerlo? Muori. No, non gli parlo neanche, se vogliono si mettono d'accordo loro. Cioè non gli parli neanche, non gli dici no, guarda, non gli parlo neanche, spiegare. Nel senso che io ho fatto la mia lista, poi ho indicato delle condizioni che sono quelle per cui possiamo desistere rispetto al conflitto. E una delle condizioni era questa, se poi questa condizione non piace a lui mi deve spiegare in quale diritto è scritto che il fratello di uno condannato per mafia che ha scontato semplicemente la pena, come dicono i radicali, come dice Rita Bernardini, Pannella andava a trovarlo ogni capodanno, una vittima della giustizia, cioè un condannato. Ma Silvio Cuffaro si vuole candidare con voi? No, si vuole candidare, ecco, si vuole candidare, ma il centrodestra gli dice di no. Io non capisco quale sia la logica. Tu lo vuoi ospitare? Lo vorresti ospitare? Sì. Ospitare io non lo ospito, ma non mi faccio dire di no da Musumeci. No. Allora questo... lo sentiremo, Vittorio, ti gireremo quello che lui dice. Grazie, vai va a dormire adesso, riposati, dai, riposino. Buongiorno, ciao. Buona mattina, siate felici. Allora, buongiorno, buonattina, state felici. E Chiara, ti piace questa cosa del fare una lista per far perdere? Però, siccome tu sei di centrosinistra, ti dovrebbe piacere la strategia di Sgarbi. Di solito viene attribuita, infatti, reciprocamente. Però è bello sentire questo argomento anche a destra. Però no, di solito si dice che la sinistra fa perdere quindi il centro-sinistra, invece adesso è lui che dice io voglio far perdere, questa è un'innovazione. Vendica. Ho letto però che Sgarbi dice di essere il candidato più sexy. Sì. Ma però volevo dire che dimentica e sottovaluta Claudio Fava, perché noi anziane croniste parlamentari sì. Ricordiamo che Claudio Fava ha il suo pubblico almeno nel territorio, Ecco. Quindi vorrei che non venisse omessa questa importante caratteristica del